io so cosa fare. In questo mare di squali impara a nuotare. In testa ho dei pianino che non ti sto a guardare. Fai il party villain, Louis Vuitton io lo so fare, yeah. Tu non sai che fare, yeah. Io so cosa fare. In questo mare di squali impara a nuotare. In testa ho dei pianino. Dire cosa fare, educazione per le strade. In tasca roba legale, che ormai manco più mi sale. Ne ho prese di coltellate, yeah. Sono in piedi uguale. Questi aspettano che cado, stanno tutti ad aspettare. Non mi dire cosa fare, yeah. Dire come amare. L'asfalto scotta per strada, cresco come un animale, yeah. Mi levo questa da dosso, yeah, yeah. Cosa fare? In questo mare di squali impara a nuotare. In testa ho dei pianino che non ti sto a guardare. Fai il party villain, Louis Vuitton io lo so fare, yeah. Tu non sai che fare, yeah. Io so cosa fare. In questo mare di squali impara a nuotare. In testa ho dei pianino che non ti sto a guardare. Fai il party villain, Louis Vuitton io lo so fare, yeah. Tu non sai che fare, yeah. Cresciuto tornando alle sette, se scendo la banda c'è sempre. Bye bye bang, spari alla testa. Entro ed inizia la festa. Dai 40 e te ne senti 20. Tu ci provi ma non lo sai fare, yeah. Io so bene cosa fare. Tu manco che dire da dove iniziare, yeah. Io so cosa fare. In questo mare di squali impara a nuotare. In testa ho dei pianino che non ti sto a guardare. Fai il party villain, Louis Vuitton io lo so fare, yeah. Tu non sai che fare, yeah. Io so cosa fare. In questo mare di squali impara a nuotare.